Quelle due donne erano come due dita della stessa mano. Da quando frequentavano un collegio di suore nascosto sotto un tunnel alle varie scale, ai tempi delle persecuzioni contro i clericali e controrivoluzionari, fino a che negli anni 40 andarono al primo ballo dell'università per incontrarsi con quegli esseri stravaganti e remoti che erano gli uomini. Non gli uomini di casa loro, che servivano a volte da tappezzeria e a volte da coperte, bensì gli uomini che le guardavano con occhi pieni di desiderio e di curiosità. Gli uomini che pensavano a loro e alle loro gambe, a loro e all'incubo che avevano sotto la vita, a loro come a qualcosa di imprevedibile e conturbante. Conobbero la medesima notte i cuori ardenti che avrebbero preso loro la vita e il ventre per riempirli dei loro cognomi, delle loro ossessioni, dei loro figli. Ebbero entrambe un fidanzamento più o meno decoroso, finirono per sposarsi più o meno nello stesso periodo. Divisero l'inquietudine della loro prima gravidanza, ebbero entrambe un litigio infernale prima che fossero trascorsi 2 giorni di luna di miele e impararono entrambe che al dolore apparentemente irrimediabile di ogni litigio seguono ore di gloria e di frasi dolci che danno al patetico carattere di reversibilità del patto coniugale la sensazione che non si possa fare nella vita patto migliore. Entrambe cucinavano con dosi simili di cipolla e perfino le loro torte emanavano un profumo uguale, quantunque venissero cotte in forni diversi e a orari differenti. Come se non bastasse, ebbero entrambe 5 figli. Trascorrevano i pomeriggi confezionando i loro vestiti in serie e sorvegliandoli tutti e 10 insieme come pastori dello stesso gregge. Erano identiche le gemelle Gomez, si distinguevano solo per la precisione di alcuni tratti. Tuttavia, tale differenza dei loro volti era l'esatta misura della differenza tra i loro spiriti. La zia Marcella aveva lo sguardo di chi cerca il lato migliore della vita, di chi non può accontentarsi della felicità a disposizione dei semplici, ma sa mettersi al loro livello pur di afferrarsi al minimo indizio di felicità. Per questo canterellava sempre, per addormentare i bambini e per svegliarli, per infilare un ago, per pregare il cielo che le uova della colazione non si attaccassero alla padella, per chiedere a suo marito che la guardasse con gli stessi occhi di un tempo e perfino per accompagnare il soliloquio delle sue lunghe camminate. La zia Giacinta aveva ereditato da sua madre una malinconia estenuante. A volte rimaneva a fissare nel vuoto come se avesse perso qualcosa, come se l'infinito stesso non bastasse al suo anelito d'assoluto. A volte la intristiva il pensiero di non essere nata in Norvegia in una notte di tormenta, di non essere mai stata in Congo e di sapersi incapace di fare un viaggio in India. Era sicura che non avrebbe mai visto l'Egitto, che non avrebbe mai viaggiato per la sera di Chichua, che il mare con i suoi tradimenti e le sue promesse non sarebbe mai diventato il compagno dei suoi risvegli. Sin da bambina era sempre stata una lettrice appassionata, ma non riusciva, come fanno molti lettori, ad immedesimarsi nella storia che leggeva. Al contrario. Ogni storia, ogni luogo, ogni personaggio avevano sempre l'effetto di spronarla nella malinconia di essere soltanto se stessa. Non sarebbe mai stata una suicida come Anna Karenina, né un'alcolizzata come Ava Gardner, né una pazza come Giovanna d'Arco, né la moglie di un invasore come Carlotta Amalia, né una cantante appassionata come Celia Cruz. Aveva 5 figli, non avrebbe mai saputo che cosa volesse dire averne 2 o 10. Aveva una casa di dimensioni medie e un marito commerciante. Non avrebbe mai saputo che cosa volesse dire vivere in un palazzo o soffrire la fame. Suo marito aveva i capelli castani e docili e lei non avrebbe mai saputo come sarebbe stato accarezzare una chioma irsuta e nera come quella di Emiliano Zapata, una testa dorata come quella di Henry Fonda o completamente calva come quella del vescovo Toris. A volte sua sorella interrompeva una canzone per domandarle che cosa stesse pensando, perché nell'ultimo quarto d'ora non aveva cucito nemmeno un punto. Allora zia Giacinta le rispondeva come segue: Non ti sarebbe piaciuto dipingere la Mona Lisa? Ti immagini se avessimo imparato a ballare con Fred Astaire? Evita Perón sarà una bugiarda? Che numero di scarpe avrà Pedro Infante? Pare che ci sia una spiaggia a Oaxaca che si chiama Huatulco ed è il paradiso e noi stiamo qui rinchiuse. A me piace stare qui, diceva la zia Marcella guardando la campagna intorno e i vulcani in lontananza. La campagna non era mai la stessa. Ogni stagione cambiava di colore e solo perché si era abituati a chiamare le montagne sempre con lo stesso nome era possibile vederle sempre uguali, quando a volte splendevano di verde e altre volte la siccità le rendeva grigie e polverose. In quell'epoca dell'anno che seccava tutto, anche la pelle delle mani e delle palpebre, in quelle stagioni in cui il sole batteva forte la mattina e tramontava presto, cedendo il posto a un vento gelido, in quei pomeriggi che portavano i bambini febbri atroci, che ferivano loro la gola facendoli tossire in modo convulso, in quei giorni ancora vicini al Natale, ma che passata l'aspettativa della festa si erano fatti lunghi come messe in latino e odiosi come sermoni di Quaresima, la zia Marcella si scoprì una pallina nel seno sinistro. Stavano cucendo dei vestiti bianchi con ricami rossi per la comunione pasquale delle bambine. Non so perché dobbiamo sempre metterci tanti volandi, disse la zia Giacinta, soffermandosi su una piega della stoffa. Ho una strana pallina nel seno sinistro, le rispose sua sorella e la zia Marcella. Che cosa? Fece Giacinta, gettando lontano un vestito. Fammi vedere, fammi vedere. Afferrò sua sorella per il golfino e infilò sotto una mano, fino a toccarle il seno. Eccola là. Dura come una nocciola, ma non esattamente rotonda. Rifiutandosi di credere all'evidenza, la zia Giacinta spostò la mano un po' più in alto e ne sentì una uguale, e un'altra ancora un po' più in basso. La sola idea che tutto ciò potesse essere maligno la fece tremare di terrore da capo a piedi. Sua sorella la vide impallidire mentre cercava di trovare un tono indifferente. Non credo che sia grave, però bisognerà andare dal dottore. Non dire nulla a tuo marito. Sai come sono gli uomini, fanno sempre tanto baccano per nulla. Perché sei diventata pallida? Assomigliano a quelle della mamma, vero? Io non mi ricordo, sono passati 20 anni. Io sì che mi ricordo, disse la zia Marcella, il volto illuminato da un sorriso tanto bello da sembrare sinistro. Erano uguali. Non vorrei morire senza essere mai stata in Egitto, disse la zia Giacinta, giocherellando con i volanti di un vestito. Nemmeno per sogno, le rispose sua sorella. La zia Marcella. Il giorno seguente andarono dal dottore, un uomo di una cinquantina di anni che amava il buon vino e la musica di Brahms. Lo conoscevano da quando avevano memoria. Un tempo aveva avuto i capelli castani e folti, ma mai prima da allora la zia Giacinta aveva notato in lui l'espressione di misericordia che gli abbelliva gli occhi. Mentre la zia Marcella lasciava che le visitasse il seno, cercando di concentrarsi nell'idea che si trattasse di un ginocchio e che quindi non aveva alcun motivo di provare vergogna, perché perfino le bambine mostrano senza arrossire le sbucciature di un ginocchio, il pover'uomo guardava la zia Giacinta con l'aria di scusarsi per dover essere lui a dar loro la notizia. A quel punto la zia Marcella aprì gli occhi e colse l'espressione di sua sorella. Con la vivacità di una bimba si mise a sedere sul lettino e le disse, sfoderando il sinistro sorriso del giorno avanti: Non preoccuparti, abbiamo ancora abbastanza tempo per vedere Alessandria. La zia Giacinta la guardò come se stesse guardando nel vuoto. La zia Marcella, continuando a parlare, si alzò e andò a rivestirsi nella stanza accanto. Gli udì parlottare a voce bassa. Non mi imbrogliate, disse, uscendo con gli ultimi bottoni della camicetta ancora aperti. Voglio partecipare alla storia della mia morte facendo qualcosa di più che morire alle spalle di tutti. Jamie ti propone un'operazione, disse la zia Giacinta. Forse non è ancora tanto ramificato. Rimarrei piatta? Chiese la zia Marcella al dottore. Sì, rispose l'uomo. E tu vuoi che compia 40 anni senza seno? Sorella, se non lo fai potresti non arrivare a compierli, disse la zia Giacinta. Sarà un sollievo, rispose la zia Marcella. Compiere 40 anni, come se non bastasse avere il cancro. A partire da quel momento la zia Giacinta non lasciò sola sua sorella neppure per un minuto. L'accompagnò a farsi operare e sottoporsi alle terapie. La portò da santoni, erboristi, stregoni della Sierra, nelle chiese e a Rochester. Chissà come sarebbe avere 10 figli, le disse la zia Marcella un giorno mentre uscivano dalla chiesa di Santo Domingo. Non so perché Dio abbia deciso di togliermi di mezzo. La zia Giacinta la udì ripetere la frase nella chiesa della Santissima Trinità, inginocchiate una accanto all'altra sugli inginocchiatori vestiti di velluto rosso di fronte all'altare. Dio, Dio, Dio, perché vuoi togliermi di mezzo? Il suo corpo, dalle spalle rette e dalle gambe lunghe, si era andato rattrappendo. Camminava aiutandosi con un bastone, aveva perso la franchezza della pelle e la vivacità degli occhi, ma il suo volto era dominato ancora dall'implacabile bontà del sorriso. Erano passati solo 9 mesi dal giorno in cui erano andate dal medico e ottobre si avvicinava a grandi passi con gli inevitabili 40 anni. Perché per il nostro compleanno non facciamo una festa all'albergo sul vulcano? Propose la zia Marcella un pomeriggio in cui i bambini facevano baccano. Dove vuoi tu? Rispose la zia Giacinta, che aveva perduto la sua eterna nostalgia. Ho Ormai non sprecava più un solo secondo desiderando altri luoghi. Si occupava di 10 bambini, 2 case, un marito, un cognato e di una cieca speranza. Era il suo modo di esorcizzare la lenta cerimonia della morte. Sapeva però che la zia Marcella non ne poteva più, che soffriva centinaia di piccoli e grandi dolori, che non valeva più neppure la pena di fingere che presto si sarebbe stancata di farlo. Camminava per strada guardando le persone che sarebbero potute morire al posto di sua sorella, i perversi, gli inutili, gli indesiderabili, finché dopo tanto guardare finiva per vedere se stessa, come la persona più inutile di tutte. All'inizio aveva giocato con sua sorella a fare progetti per il futuro, programmare viaggi, andare a fare acquisti, iscriversi alle lezioni di francese di Madame Giron, imparare a nuotare prima di andare a Cozumel. Col tempo avevano smesso di farlo, come se avessero tacitamente convenuto di risparmiarsi quella tortura. Allora la zia Marcella dedicò molte ore a descrivere le qualità e le debolezze dei suoi figli, parlando tanto e in modo tale che sua sorella potesse riconoscerle e predirle fino all'ultima sfumatura. Ricordati che Raoul fa il duro quando vuole nascondere qualche dispiacere. Non dimenticare che Monica è timida, non trascurare la vocazione artistica di Patricia, non permettere che Juan cresca pieno di paure. Coccola molto, Federico. Sai già tutto, no? Sì, so già tutto. E so anche che tu saresti una madre molto migliore per i miei figli e che Dio è pazzo. Non dire queste cose, sorella, le rispose Marcella, che aveva pensato molte volte che Dio fosse pazzo, che forse non esisteva neppure, ma che sapeva perfettamente quanto sua sorella avrebbe avuto bisogno di qualcuno come Dio una volta che lei fosse morta. Dio sa quello che fa, anche se spesso i suoi disegni ci risultano oscuri. Egli ci ama, si prende cura di noi, ci protegge. Sì, sorella, sì, è per questo che devi morire quando abbiamo più bisogno di te. Perché illudersi? Perché? Perché? Tu, sorella, per continuare a vivere, io per morire senza troppo sconforto. Non rifiutare le idee del tuo tempo e che non ti venga in mente di insegnare ai miei figli le nostre farneticazioni. Beh, c'era una festa nell'albergo innevato sul vulcano e le sorelle spensero le loro 40 candeline e i figli adolescenti decisero di andare a fare una camminata. La zia Marcella fece per seguirli. Dove vai, Marce? Non stai ancora bene? Le chiese il marito, con il quale la zia Marcella giocava ancora a far finta che prima o poi si sarebbe ristabilita. Vado solo a prendere una boccata d'aria. Vengo con te, disse la zia Giacinta, aiutandola ad alzarsi. Fuori faceva un freddo di quelli che penetrano per il naso e in tutto il corpo. Mi odierà per averlo tradito, disse la zia Marcella. Per lui sarò sempre la donna che l'ha abbandonato a metà strada. Che cosa gli posso dire? Di non essere ingiusto, di avere un po' più di compassione per me di quella che sente per se stesso, di perdonarmi, che non è mia la colpa, pregarlo di non dimenticarmi, di risposarsi, di dirmi quando mi trovo attraente, che mi chiami amore mio invece di ehi Marce nei prossimi giorni. La zia Giacinta le passò un braccio intorno alle spalle e non rispose. Rimasero così finché i mariti non si avvicinarono. Per un po' parlarono della bellezza del vulcano, di come brillava la neve, della prima mattina in cui erano andati lassù insieme. Poi tornarono i figli, eccitati e rossi in viso, raccontando le loro prodezze. Andiamo, quarantenni, disse il marito della zia Marcella, accarezzandole il collo. Aiutò a scendere fino all'automobile e la mise dentro, coprendola bene come fosse una bambina. La zia Giacinta si avvicinò per darle un bacio. Visto che ti ho accompagnato a compiere gli anni, le disse la zia Marcella. Il giorno seguente non volle alzarsi. I 40 mi pesano, civettò con la zia Giacinta quando la vide arrivare angosciata. 2 giorni più tardi il medico si decise a darle la morfina. Ieri ho sognato Alessandra d'Egitto, disse la zia Marcella alla zia Giacinta, svegliandosi da uno dei sogni profondi dovuti alla droga. Hai ragione a volerci andare. Che ne farei dei tuoi desideri, sorella? Li lascerò in eredità. Rispose la zia Giacinta. Bisognerebbe andare anche in Danimarca, in Italia, in Marocco e a Siviglia, a Cozumel, in Cina, proseguì la zia Marcella. Sto diventando come te. Che ne farai dei tuoi sogni, sorella? Da un anno ormai tutti i suoi desideri si erano ridotti a un unico desiderio, quello di non perderla. Da molto tempo sua sorella era diventata Parigi e New York, Istanbul, le isole greche. Il più lungo riassunto di desideri impossibili con cui la vita l'avesse mai torturata. La sera del giorno in cui seppellirono sua sorella Marcella, la zia Giacinta, esausta per i mesi di veglia, distrutta da un dolore che faceva ormai parte del suo corpo, si addormentò in una poltrona della sala. Poco dopo si svegliò infreddolita e con uno strano sorriso che le palpitava sulle labbra. Che cos'è successo? Le chiese suo marito che le stava accanto osservandola. Ho sognato Marcella, disse la zia Giacinta. È in paradiso. Che cosa dice? Domandò l'uomo che conosceva i rischi di disturbare quel dolore. Dice che è come qui e che è contenta. Sai che a lei non è mai piaciuto viaggiare, rispose la zia Giacinta dirigendosi verso la sua stanza. Andiamo, vieni a letto. Bisogna dormire per vedere che altro c'è. Da bambina la zia Elvira aveva paura del buio. Le sue sorelle credevano che fosse perché al buio non si vede niente, ma era vero il contrario, lei nel buio vedeva di tutto. Dall'oscurità sbucavano ragni e vampiri giganti, sua madre in camicia da notte abbracciata a un crocifisso, suo padre che a quattro zampe contemplava una cometa verde, mentre il nonno e gli zii lo calpestavano correndo a rotta di collo e spalancando le bocche violette per ululare senza che nessuno gli udisse. Nell'oscurità c'era una bimba legata alla ringhiera delle scale con un nastro di raso tanto stretto da farle uscire il sangue. Non diceva nulla la zia Elvira, ma muoveva le labbra come se dicesse: Ci sono leoni, uccelli che galleggiano morti nella vasca dei pesci. Non ti inventare le cose, Elvira, le dicevano le sue sorelle. Nel buio non c'è niente di più di quello che c'è alla luce. Tuttavia, anche alla luce del giorno, la zia Elvira non vedeva le stesse cose delle sue sorelle. Era capace di trasformare il pianoforte in un lucertolone, la dispensa nella caverna di Ali Baba, la fontanella nel Mar Nero e l'acqua da Cetusella in sangue di fucilati. Dicevano che la zia Elvira fosse sempre un po' fuori dalla realtà, ma quando ci si mise imparò a ricamare come qualsiasi altra signorina che si rispettasse a suonare il piano con una certa delicatezza e a cantare tutte le canzoni decenti, comprese le 9 versioni più belle dell'Ave Maria. Sapeva cucinare qualsiasi piatto, meno il baccalà. La sua nonna materna aveva fatto di tutto perché le sue figlie e le sue nipoti non imparassero a cucinare quella pietanza, perché in Spagna il baccalà era il piatto dei poveri e se lei aveva fatto tanto per vivere in Messico non era perché i suoi discendenti finissero per mangiare pesce secco, come qualsiasi andaluso morto di fame. La zia Elvira aveva gli occhi neri di sua madre e la bocca audace di suo padre. Una bocca chiacchierona e arguta, senza la quale si sarebbe potuta sposare prima dei 20 anni con qualsiasi creolo di 50 generazioni o con uno di quegli spagnoli sfuggiti da poco alla miseria che facevano tanta fortuna in America. Oppure, in caso di innamoramento inevitabile, poiché la tolleranza razziale di suo padre in realtà indifferenza, con qualche libanese sveglio e lavoratore. Ognuno di questi uomini desiderava, come tutti gli uomini, accasarsi con una donna. Che non se ne andasse in giro esprimendo le proprie opinioni né intromettendosi nei discorsi degli uomini, né suggerendo soluzioni per il problema dell'immondizia o dell'epidemia dei governatori. Le donne non erano fatte per parlare di argomenti che non fossero domestici, anzi, meno parlavano e meglio era. Le donne dovevano dedicarsi a cucire, a cantare, cucinare e pregare, dormire e svegliarsi al momento debito. In città sapevano tutti che la zia Elvira Almada non solo aveva più opinioni di un giornale d'opposizione, ma si dedicava anche a strane pratiche. Tanto strane come restare sveglia fino alle 3 del mattino e non essere in grado di alzarsi in tempo, neppure per la messa delle 9, che era l'ultima. Alle 9, come alle 10, la zia Elvira dormiva come il bue che nessuno le avrebbe messo sotto l'ombelico, proprio perché a lei non importava nulla di dove si doveva tenere l'ombelico in ogni preciso momento. Le dame dell'epoca facevano bene attenzione a portare il proprio ombelico alla messa delle 8 e a riportarla a casa subito dopo, perché nessuno pensasse che se ne stessero a spasso come vecchie passeggiatrici fino all'ora di pranzo. Quindi cucinavano, si dedicavano al giardinaggio, aiutavano le madri o scrivevano lettere pudibonde per esercitare fino alla perfezione la loro calligrafia. Le più oziose spettegolavano e imparavano a memoria un poema lacrimoso. La zia Elvira e il suo ombelico invece si svegliavano verso le 11. Passavano la mattinata leggendo romanzi e teorie sociali, finché i morsi della fame non indicavano che era giunta l'ora di dedicarsi a brocche e catini, per lavarsi tutto il corpo in modo disordinato ma scrupoloso. Prima di tutto linguine con i suoi piccoli peli, nei quali la zia Elvira temeva sempre con orrore di trovare qualche pidocchio sbucato durante la notte da un angolino. poi l'ascelle che depilava con la stessa ostinazione di una donna moderna, quindi l'ombelico e infine i piedi e le ginocchia. Dopo le abluzioni si spruzzava acqua di rose nei 10 punti che considerava cardinali e si spalmava succo di barbabietola sulle gote. Compiva quest'ultima operazione con tanta abilità e da tanti anni che perfino sua madre era sicura che sua figlia Elvira avesse uno splendido incarnato naturale. Arrivava in sala da pranzo sempre all'ultimo momento, ma sempre in tempo. Buongiorno tesorino, diceva sua madre, che viveva angosciata per il comportamento di quella sua creatura che vedeva come tutti destinata alla solitudine. Buongiorno, rispondeva la zia Elvira, con la coscienza tranquilla di chi si alza a fare colazione alle 6 del mattino. Il pranzo era sempre il suo primo pasto e anche quando il destino le portò giorni funesti di levatacce, non le riuscì mai ad inghiottire cibo prima delle 2:30 del pomeriggio. Tutti i giorni a quell'ora suo padre tornava a casa dopo aver combinato affari e grossi fiaschi. La zia Elvira amava portare la conversazione su questo argomento. Il mondo di suo padre era pieno di progetti e di miraggi e lei era felice quando tutta la famiglia navigava per quei mari. Non c'era affare sfortunato che suo padre non avesse intrapreso. Aveva comprato una fabbrica in fallimento che gli era stata costata quanto una nuova e che aveva più tasse arretrate da pagare al fisco di quanto gli era costata. Il governatore aveva finito per affidare la gestione della fabbrica agli operai e il padre della zia Elvira aveva accettato la decisione senza fiatare. Con quello che gli era rimasto aveva comprato le azioni di una miniera di sale da 2 aspiranti inventori, il cui tentativo di desalinizzare l'acqua di mare era miseramente fallito. In seguito aveva importato porcellane tedesche e cinesi per poterle vendere. Aveva aperto un negozio di articoli da regalo che in breve era diventato il luogo di ritrovo più rinomato della città. C'erano sempre sigari e caffè per coloro che manifestavano un minimo interesse per l'acquisto, la vendita e l'utilizzo della porcellana. In capo a un anno il negozio fallì e dovette chiudere, ma la gente si era talmente abituata a trascorrere in quel luogo l'ora del caffè e delle chiacchiere che un turco lo rilevò mettendosi a vendere tacos e arricchendosi alla faccia del buon Don José Antonio Almada. Dopo quella delusione, il signor Almada si recò nello stato di guerrero in cerca di terre e tornò a casa padrone di alcuni terreni sulla costa in un porto chiamato Acapulco, che secondo lui sarebbe diventata una delle spiagge più famose del mondo. Questa volta intervenne sua moglie, minacciando il divorzio. Lei, che in tali circostanze non si sarebbe mai azzardata a pronunciare quella parola, se suo marito non avesse venduto quanto prima i 5 ettari di quella spiaggia inospitale. Stando così le cose, il padre di Elvira vendette la sua spiaggia e perse quello che sarebbe stato l'unico buon affare della sua vita. Non verrà fuori nulla di buono da tutto questo, disse il giorno in cui comprarono i suoi terreni. Non si può disprezzare impunemente una simile meraviglia. Esaurite tutte le fantasie imprenditoriali, il signor Almada entrò in politica con lo stesso entusiasmo e la stessa ignoranza con cui si era buttato nel mondo degli affari. Come se non fosse chiaro a chiunque che non era il caso di mettersi contro il governo, il padre della zia Elvira pensò bene di rispolverare la sua laurea in giurisprudenza per difendere un torero che non era stato pagato dal governo per le sue prestazioni in una corrida in cui aveva combattuto contro 6 tori con le corna non smussate, ammazzandoli uno dopo l'altro in onore degli eroi del 5 maggio. Il padre della zia Elvira, che aveva assistito alla corrida con la stessa devozione con cui altri assistono alla messa o vanno in banca, pensò che fosse il colmo, che il governatore usasse il suo potere per maneggiare le finanze pubbliche come fossero le proprie era un conto, ma che una perfetta calma negasse il salario a un artista perché non aveva ucciso l'ultimo toro al primo tentativo era un altro paio di maniche. Qui il circo è gratis, gli aveva detto il governatore. Ti posso dare da mangiare e da divertirti, ma di soldi non se ne parla neppure. Inoltre, ti sei comportato come un macellaio. Il torero aveva dimostrato il suo coraggio per 3 ore filate e non riuscì a trattenersi. Si mise a insultare il governatore, chiamandolo tiranno, ladro e assassino, e il governatore a sua volta lo spedì in galera. Il padre della zia Elvira si precipitò in carcere per offrire i suoi servigi al torero. Citò in giudizio il capo del governo, accusandolo di furto e abuso di autorità. All'ora di pranzo era quasi certo che avrebbe vinto la causa. Si era fatto aiutare dai suoi amici della stampa che gli dovevano parecchi caffè e a cui sembrò si trattasse di un contenzioso di dimensioni accettabili per mettersi contro il governatore. dedicarono lunghi articoli alla propria incredulità di fronte al fatto che un uomo tanto magnanimo e affezionato alla festa popolare come il governatore avesse potuto maltrattare un torero. Sicuramente le cose non stavano così, ma per chiarire eventuali malintesi era a disposizione quell'onest'uomo di Don José Antonio Almada. Erano arrivati al dessert quando giunse la notizia che il torero sarebbe stato scarcerato. La zia Elvira ingoiò 3 cucchiaiate del suo budino e corse subito dietro a suo padre. Arrivarono in tempo per assistere alla scarcerazione. Tanta era la contentezza di suo padre che se la portò in un'osteria che a poco si riempì di gente venuta a festeggiare la liberazione del torero. Ne nacque una festa improvvisata di brandy e anisette, musica e frizzi osceni, che segnò per sempre la reputazione di Elvira Almada. La zia Elvira aveva ballato con il torero fino a che non erano stramazzati entrambi su un tavolo, sfiniti dalla stanchezza. Aveva bevuto liquore all'anice e usato parole da uomini con tale abilità e sfacciataggine che tutti i presenti avevano scordato che si trovava tra loro una delle rispettabili signorine Almada. Non si ricordarono di chi si trattava, se non il mattino dopo, quando Elvira e suo padre tornarono a casa canticchiando e stregita e dichiarandosi il proprio amore. «Sentimi bene, bimba», le disse suo padre. «Io sono l'unico uomo della tua vita che ti amerà sempre senza chiederti nulla in cambio. E io l'unica donna che continuerà ad amarti quando sarai vecchio e ti farai pipì nei pantaloni», gli rispose la zia Elvira. Entrarono ridendo nel patio, illuminato da un sole tiepido. Al centro, ritta impalata, c'era la madre della zia Elvira, simile a un fantasma. «Ti rendi conto di quello che hai fatto?» gridò suo marito. Aveva sul capo la mantia con cui andava in chiesa. Aveva pianto. Non capiva di che potesse ridere quella coppia di responsabili. Era evidente che non si rendevano conto di ciò che avevano fatto. La gente felice è cieca e sorda. «Ho tirato fuori il torero di galera», disse l'uomo. «Hai dormito male. Non hai un bell'aspetto». Poi diede un bacio a sua moglie. Guancia a guancia e salì le scale pensando al suo cuscino. La zia Elvira capì che se fosse rimasta un secondo da sola con sua madre, il cielo le sarebbe caduto sulla testa. Così corse in cucina a cercare un tortino al formaggio e una tazza di tè. Per qualche giorno sua madre non rivolse la parola né a lei né al suo marito, ma alla fine si lasciò riconquistare da entrambi e la sua insistenza tornò a essere tranquilla e felice. A parte l'inettitudine di suo marito negli affari, la vita era stata generosa con la madre della zia Elvira. Per scarsa immaginazione, era però convinta, come insegnano i salesiani, che al mondo ciò non è buono e cattivo. E la zia Elvira aveva manifestato sin da piccola una spiccata propensione a non rispettare ciò che tutti considerano bene. Come aveva indovinato la gente, non era stata tanto l'abilità legale e giornalistica del signor Almada a tirare fuori il torero di prigione, quanto il semplice fatto che il giorno seguente la corrida del signor governatore aveva ripensato con piacere alle prodezze dell'uomo. Tornato di buon umore, considerò un'ingiustizia tenerlo rinchiuso solo per aver usato il suo coraggio contro di lui. Arrivò perfino a pagargli la cifra dovuta e rimase con lui in rapporti amichevoli. Per farla breve, come in tutti i suoi affari, l'unico a non uscirne bene fu il papà della zia Elvira, il quale naturalmente non si rese conto di nulla. Per questo, poco tempo dopo, si appassionò alla causa di alcuni operai in sciopero che il governo aveva sollecitato a tornare al lavoro con le buone, ossia a tornare al lavoro e basta. Ma quali salari, ma quali prestazioni, ma che accidenti! L'importante era ristabilire la produttività. Come se non avesse abbracciato la causa con sufficiente passione, la questione della produttività diede la spinta decisiva al padre della zia Elvira. Nessuna persona onesta doveva essere produttiva per forza, tantomeno fare in modo che altri lo fossero. Dichiarò ai giornali tutto quello che gli passò per la testa contro coloro che ritengono la produttività l'unico criterio in base al quale giudicare gli esseri umani. Ne approfittò per criticare coloro che nella vita inseguono soltanto il denaro e il potere e tornò a farsi paladino degli oppressi contro il governatore e i suoi accoliti. Tutte queste cose, dette in casa sua o con gli amici, gli procurarono gli elogi e l'ammirazione di mezzo mondo. Messe nero su bianco, tuttavia, apparivano come una pazzia o un suicidio, il peggior affare che Don José Antonio Almada avesse intrapreso nella sua calda e generosa esistenza. La storia dei festeggiamenti con il torero era giunta alle orecchie del governatore, che gliela raccontò e descrisse la zia Elvira come il lusso di passione e bellezza che aveva illuminato quella notte. Ad ognuno dove più duole, disse il governatore morto dalle risate. E con questo è uno scherzo da ragazzi perché lascia il suo dolore in libertà. Soltanto a un sempliciotto come lui potrebbe venire in mente. Dopo mangiato, la zia Elvira e sua sorella Josefina solevano andare a passeggio per l'Avenida di La Paz in direzione del Colle di San Juan. Erano due donne apparentemente agli antipodi e forse era proprio questo il motivo per cui si adoravano. Josefina era fidanzata con il miglior partito della città, un uomo prudente e ricco che a detta della zia Elvira sarebbe stato perfino bello se non avesse avuto quell'espressione tanto austera. A metà strada, quasi sul limitare della città, si ritrovava la grande casa del promesso sposo, resa ancor più grande dall'annesso mulino che costituiva parte della fortuna di famiglia. In questa casa Josefina si fermava per trascorrere un paio d'ore con sua suocera, che l'attendeva sulla soglia per dedicare le ore successive ad addestrare la ragazza alle esatte abitudini e ai gusti domestici della famiglia, nella quale sarebbe dovuta entrare con tutta la sua dolcezza, la sua intelligenza e la sua linea perfetta. La zia Elvira proseguiva da sola fino alla collina, sulla quale si arrampicava come una capra, mordicchiando il gambo di un fiore e facendo presa sull'erba e sul terreno con i piedi esperti e saldi. Una volta giunta sulla vetta, si adagiava sull'erba a contemplare il tramonto, con la devozione di chi conosce preghiere per pochi privilegiati. Doveva aver ereditato quel rito di contemplare il sole e i vulcani da qualche antenato di Cholula. Fu durante quella cerimonia che un pomeriggio venne rapita. Fu bendata e trascinata giù dalla collina mentre lanciava grida che nessuno avrebbe udito. Sua sorella si trovava a 2 chilometri di distanza, intenta a imparare il punto a giorno. Sua madre stava facendo biscotti all'arancia, suo padre si era appena acceso un sigaro davanti a una tazza di caffè libanese e discuteva con i suoi amici del disastro di continuare a vivere in una società come quella di Puebla, che era uguale alla società messicana, che alla fine della fiera era identica a tutte le altre. Soltanto quando cadde la notte, Josefina cominciò a preoccuparsi per il ritardo di Elvira. Era una matta audace, ma tutti sapevano che non le piaceva l'oscurità. All'inizio Josefina nascose la preoccupazione perché si vergognava di infastidire la sua futura famiglia con le pazzie della sorella Elvira, che non aveva avuto il buon gusto di lasciare passare almeno le nozze prima di mettersi nei pasticci. Ma quando, scortato dal fidanzato della suocera, salì e ridiscese dalla collina, scrutando dappertutto e chiamando la voce alta dall'auto senza ottenere risposta, l'angoscia la prese alla bocca dello stomaco e non riuscì più a parlare. Dovette arrendersi all'evidenza che Elvira non era nei paraggi e tornare alla casa accanto al mulino, trattenendo a stento le lacrime sul viso di bimba battuta. All'arrivo trovò riunita tutta la famiglia del suo fidanzato: il suocero, le zie, la cognata, il cognato e la madre abbandonarono l'abituale riservatezza e, con grande cordialità e senso dell'opportunità, si misero a sciorinare storie di donne rapite, stuprate, ammazzate e squartate nel corso degli ultimi 30 anni. Sua suocera aveva perduto durante la rivoluzione tutti gli averi che suo marito aveva accumulato a quell'epoca. Attribuiva tutti quegli atti di barbarie al governo, compresa la storia della bambina caduta in un pozzo in un momento di disattenzione della madre. Don José Antonio Almada arrivò a casa alle 8 in punto e trovò sua moglie intenta a decorare i biscottini e recitare sorridendo il Magnificat. Quando il signor Almada chiese delle figlie, interruppe la preghiera per affermare che non erano rientrate. L'uomo l'aggredì dicendole che era pazza anche lei, che non gli venisse poi a dire che Elvira aveva ereditato la sua follia da lui, che sembrava non si fosse resa conto dell'ora. Certo che me ne sono resa conto, disse la donna, ma ho evitato di fare tanto chiasso perché, siccome dite sempre che esagero, mi sono proposta di non mettermi a urlare per non sembrare. Com'è che dici tu? Manichea, cara, manichea. Però non hanno mai tardato tanto. È quel che penso anch'io, l'ho sempre detto io, che non mi piace che vadano a passeggio da sole di sera, che Elvira si arrampichi sulla collina, che non torni prima del buio, e tu dici che sono possessiva, che a New York si usa così, che ormai siamo nel XX secolo e che. Non riuscì a proseguire e si mise a piangere spaventata. Vado a cercarle, disse Don José Antonio tremando. Per tutto il pomeriggio si era sentito ripetere al caffè avvertimenti molto più esagerati di quelli che avrebbe mai osato dare sua moglie sui rischi di mettersi contro le autorità quando si è padre di una figlia. Si incamminò verso il mulino, imprecando contro le sue figlie, che sicuramente erano lì belle e tranquille a mangiare frittelle, contro sua moglie, che alla fine aveva sempre ragione, contro i torieri e i lavoratori in sciopero, contro il governatore e soprattutto contro se stesso, che per contraddire sua moglie aveva lasciato che le figlie se ne andassero per il mondo come persone e non come gioielli che erano. Avvertiva l'ultimo freddo di marzo e ne tremava come nessun altro. Quando giunse al mulino, sua figlia maggiore lo abbracciò, come se anch'egli avesse la certezza che la zia Elvira si era perduta per sempre. Il fidanzato di Josefina si avvicinò per salutare con quella miscela di bontà e perfezione che in seguito sua moglie avrebbe detestato. So che non è il caso di ricordarle che l'avevo avvertita dei rischi che correva difendendo degli operai ribelli, disse la signora Almada. Se lo sa, perché me lo ricorda? Rispose signora Almada, che si era apparentemente ripreso dal primo spavento. Teneva il braccio intorno alle spalle di sua figlia Josefina, che si domandò se stesse scegliendo un buon marito. Prima che qualcuno cominciasse a preoccuparsi per la sua scomparsa, la zia Elvira aveva iniziato a scendere dalla collina con le mani legate e la bocca libera. Dopo i primi gridi, smise di opporre resistenza al suo rapitore. Contrariamente a quanto questi si aspettava, Elvira decise di risparmiare il fiato appena si rese conto che nessuno l'avrebbe sentita. Da quando a scuola le avevano raccontato la tragedia di Santa Maria Goretti, un adolescente che era stata fatta uccidere pur di non essere posseduta da un bruto, aveva sempre pensato che la santa avesse commesso un errore madornale e che se il suo corpo avesse mai corso un rischio simile, avrebbe fatto tutto meno che opporsi ai disegni della vita. Così, quando fu acciuffato da quell'uomo, dalle braccia forti e dall'espressione ottusa, gli disse: «Se vuoi, portami via, non opporrò resistenza, però non mi maltrattare». Il tipo ci pensò su un secondo, quindi le chiese di allungare le mani perché potesse legargliele. «Se mi imbavagli, mi viene l'angoscia e svengo», lo informò la zia Elvira. «Ti prometto che non griderò, ma non ti preoccupare se non mantengo la mia promessa. A ogni modo, non c'è nessuno che possa sentirmi». L'uomo era meno ottuso di quel che sembrava e accettò la proposta di zia Elvira, pur di non doverla trasportare svenuta fino all'automobile in cui gli aspettava il suo diretto superiore, un cinquantenne lercio, eternamente alle prese con i postumi di qualche sbronza che aveva mandato lui perché, a suo dire, ne aveva abbastanza di vecchiette spaventate. Cominciarono a scendere. «Tu con chi lavori?» domandò la zia Elvira dopo un po'. «Con il tigre», disse il ragazzo con malcelato orgoglio. «E che cosa volete da me?» «Che ne so io? Sei di quelli che obbediscono senza fare domande?» disse la zia Elvira. «Ho sentito che sei figlia di un certo Almada», rispose il ragazzo cominciando a irritarsi. «E allora? Quanto ti pagano?» «Tanto. Che te ne importa?» «Neanche ti dovessi mantenere. Io ti porto da loro e ti lascio là». «E chi mi manterrà?» «Dipende. Sei carina. Chissà che ti vorrà. Là si vedono ragazze carine. Le vedrai tu, gli altri non si accontentano di guardarle», disse la zia Elvira. Il ragazzo si avvicinò furioso, l'afferrò per le braccia e la baciò come nei film. «Bel coraggio, con la vecchia legata», disse la zia Elvira. «Sei solo o ti hanno mandato con un altro?» «Naturale che sono con un altro. L'altro ha la macchina e la pistola», disse il giovane, cercando con lo sguardo l'auto del suo amico ai piedi del colle. Per il sentiero stava salendo un'altra automobile e il vecchio si era sicuramente dovuto allontanare per non dare nell'occhio. Era tutto calcolato. Se qualcuno si fosse avvicinato, il ragazzo avrebbe dovuto nascondere la figlia di Almada nella piccola grotta che si apriva a metà collina, sul fianco opposto al sentiero per il quale saliva solitamente la gente, e proprio dalla parte da cui stavano scendendo la zia e il suo sequestratore. Elvira la conosceva come conosceva tutta la collina, ma non vi entrava mai perché era un luogo scuro e mefitico, pieno di topi e ragnatele. Il giovane le tappò la bocca e la trascinò nella grotta senza incontrare troppa resistenza. La ragazza era ansiosa di nascondersi quanto lui, si gettò a terra, gli fece segno di fare altrettanto e si infilò nella piccola grotta con più sveltezza e agilità del ragazzo. Stava facendo buio. La zia Elvira udì in lontananza i richiami di Josefina e sentì pena per lei. Pensò però che se i Mirada l'avessero trovata legata a un vagabondo puzzolente, la vita che sua sorella sognava tutte le sere sarebbe andata a farsi benedire in 448. Infine i richiami si spensero. Il ragazzo guardò la zia Elvira. Stava facendo notte, ma il suo corpo illuminava l'oscurità crescente. «Perché non hai gridato?» le chiese. «Perché non ti facessero del male», rispose la zia Elvira. «Vecchia volpe, mi vuoi mettere nei guai?» disse avvicinandosi lentamente a lei per tentarla. «Se io rubassi qualcosa, me lo terrei per me», disse la zia Elvira. La notte si era rinchiusa su di loro e lei sentì che sarebbe stato meglio rifugiarsi nell'idea di stare sognando. Il ragazzo la baciò di nuovo e cominciò a strusciarsi contro di lei febbrile. «Così son buoni tutti», disse la zia Elvira trascinandosi fuori dalla grotta. Il giovane la seguì. Sentirono l'aria sferzare loro il corpo come un'altra carezza. Il ragazzo le slegò le mani e lei gliele buttò al collo. La sua pelle aveva un odore strano. La zia Elvira pensò: che non aveva mai avuto tanto vicino una pelle che non fosse imparentata con la sua. Quindi chiuse gli occhi e con le mani libere accarezzò lo sconosciuto come se dovesse registrarlo nella memoria dei suoi polpastrelli. Gli sbottonò la camicia poco a poco, infine gliela tolse. Poi gli tappò gli occhi con una carezza e scese alla cintura, con una disinvoltura che lasciava supporre una lunga pratica. Lo toccò dappertutto, in tutto fu abile e destra, perfino con le dita dei piedi che manipolò come chi compone una decorazione floreale. Non lasciò in quel corpo alcuna diffidenza. Lo placò a furia di parole sussurrate nelle orecchie e in tutte le parti su cui passarono le sue labbra. Io sapevo che le ricche erano strane in queste cose, disse il ragazzo nella sua nudità placata e ardente. Lo siamo, disse Elvira, quando sentì la mano di lui insinuarsi fra le sue gambe di vergine intrepida. Lo siamo, mormorò, mettendosi a correre come un gatto spaventato e lasciando dietro di sé il primo corpo nudo che le mandò il destino. Stringeva fra le braccia il mucchio di vestiti del ragazzo e correva verso il mulino impetuosa e disperata. Ai piedi della collina c'era un'automobile in cui il grassone con la pistola dormiva come l'angelo che non era mai stato. Era tornato appena si era dileguata l'auto con Josefina e il suo fidanzato e quando vide che il suo pupillo tardava, immaginò che gli stesse succedendo qualcosa di bello e si concedesse un riposino. Gli era sembrato corretto aspettare che il ragazzo svolgesse il suo primo incarico, divertendosi un poco prima di consegnare la ragazza ai suoi padroni. La zia Elvira passò accanto all'auto senza voltarsi a guardarla. Un'eccitazione sconosciuta la spingeva. Che cosa sarebbe venuto dopo? Chiese un istante al suo corpo, ma invece di rispondere continuò a correre. Entrò nel mulino con gli occhi di luna e la bocca di una morta. Il portiere la vide salire le scale ancora come un animale braccato, quindi entrò nella sala e abbracciò suo padre, che vedendola viva sentì scoppiargli il cuore e mancargli le gambe. Tutto questo è successo per aver venduto Acapulco, continuò a ripetere il signor Almada nei giorni successivi al suo agonico delirio. Perché ho abbandonato gli affari? Domandava a tutti quelli che andavano a fargli visita in ospedale. La zia Elvira lo baciava e lo baciava con il viso sciupato per il pianto e lo sconforto. Non affliggerti, papà, lo ricompreremo, ma tu non morire, non morire. Continuò a pregarlo di non morire parecchio tempo dopo averlo sepolto, perché la zia Elvira in realtà non seppellì mai suo padre. Trascorse il resto della sua lunga vita facendo affari in suo onore. Sua madre le affidò all'amministrazione della fabbrica di mattoni di Sonaca, l'ultima cosa rimasta a loro disposizione per vedere se, facendola sentire indispensabile, riusciva a tirarla fuori dal pozzo di disperazione in cui si era gettata. E questo la tenne occupata per sempre. Cominciò col convincere la metà dei costruttori dello Stato che i suoi mattoni erano fatti meglio di tutti gli altri e finì col diventare proprietario di una vera miniera di sale, di due dei primi cinque aeroplani che solcarono i cieli messicani, tre dei primi 20 grattacieli e quattro alberghi sulla costa di Acapulco. Vedi papà, diceva ogni sera giunta alla fine della sua vita davanti al mare, abbiamo ricomprato Acapulco.